questo venerdì 13 gennaio. Venerdì 13, Peter, me ne sono accorto adesso. Vabbè, andiamo avanti. I titoli dei quotidiani: tassi bot dimezzati, scende lo spread. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Le due notizie di cronaca che prendono le altre prime pagine dei giornali sono la vicenda Cosentino e il referendum. Per il Corriere della Sera, Cosentino salvo, Lega nel caos. Libero, Cosentino salvo, la Lega no. Per Repubblica, no ai referendum, ora la riforma. Per La Stampa, la Consulta boccia i referendum. Il Fatto Quotidiano, il giorno delle due porcate. Si mettono insieme il referendum e Cosentino. L'Unità, la Lega dei casalesi. Per Il Giornale, il vaffa di Bossi a Maroni e la spaccatura della Lega sul caso Cosentino. Il Messaggero, rivedere la legge elettorale, la Consulta boccia il referendum. Questi alcuni dei titoli, ma vedremo, quelle sono sicuramente le due più importanti notizie dal mondo politico. Dopo le 7.30, dopo la pubblicità, ci concentreremo su questo. Prima voglio partire da alcune notizie così piluccate qua e là. Intanto, ieri Libero, come abbiamo detto, ha fatto tutto un censimento dei patrimoni dei membri del governo Berlusconi e si è scoperto che tra questi il sottosegretario in prota a 95 immobili, tanto che oggi Fabrizio Roncone del Corriere della Sera è andato a cercarlo. Insomma, c'è da essere ricchi e felici: 96 fabbricati e 61 terreni, Ciro in prota. Il quotidiano Libero ha pubblicato tutti i dati e allora andiamo a sentire il sottosegretario che cosa ci dice. Per la verità si chiama Guido in prota. 96 fabbricati, 61 terreni. È così interessante il mio patrimonio? Inizia così il colloquio a pagina 18 con il sottosegretario Guido in prota, che dice: guardi, non sono ricco. Tutto è frutto di eredità, sorvolando sul fatto che i fabbricati sono in realtà 95 e non 96. Ecco, giusto, mettiamo i puntini sulla I. Cominciamo a dire che le abitazioni sono in totale 41, 16 sono appartamenti di mia piena proprietà, 16 appartamenti, eh? Tutti derivanti dall'eredità di mio padre, in prota Salvatore, industriale e costruttore. Poi altri 23 appartamenti, di cui ho quota proprietaria pari all'8,33%. Questi derivanti dall'eredità di Improta Pasquale, mio nonno, industriale, avvocato. Ho una casa a Roma e una all'Argentario, entrambe al 50% con mia moglie. Quindi ho 22 box, 23 magazzini, quasi tutti con quota proprietaria all'8,33%, infine 4 cortili e 5 lastrici solari. Che sono i lastrici solari? Sarebbero, chiede Roncone... Guardi, mio padre costruì palazzine, si tenne le terrazze condominiali lasciandosi la possibilità un giorno di costruire altri piani. Ciò non è avvenuto e quindi sono proprietario di 5 inutili terrazze condominiali. I terreni agricoli sono 59, ma tutti agricoli e rendono poco. Insomma, c'è chi sta peggio di lei, chiede a questo punto Roncone. Non c'è dubbio, ma non sono ricco. Guardi, ho dichiarato 249.000 euro dichiarazione dei redditi, così poco? Così poco, sì. I 16 appartamenti sono a Napoli, in zona Capodichino, li ho affittati tutti regolarmente, ma una cifra di mercato, 600 euro al mese ciascuno. Al netto, pagate le tasse, sa quanto mi rimane? 6.000 euro al mese, più o meno. Sono abitazioni popolari e ultrapopolari. E poi dice, beh, adesso rivedrete gli estimi catastali. Ah, per me sarà una beffa, dice il sottosegretario in prota. Voglio dire, a parole sembra un ricastro, sa? E invece se non mi sbrigo a vendere un po' di appartamenti, rischio di lavorare per pagare le tasse. Oh, questa è la conclusione fantastica del sottosegretario Guido in prota. 96 fabbricati e 61 terreni, o vende in fretta oppure rischia di lavorare per pagare le tasse. A proposito di case, continua la campagna, soprattutto sul giornale Libero, nei confronti del ministro della funzione pubblica Patroni Griffi, la vicenda della casa, per la quale la casa comprata tutta in maniera regolare ma con un prezzo di mercato, ormai lo sapete, dovuta alle cartolarizzazioni di una vendita di un edificio dell'INPS, un prezzo di mercato molto al di sotto del prezzo di mercato. Casa Patroni Griffi, il PM apre un'indagine conoscitiva, fa sapere il Sole 24 Ore, pagina 23, ma c'è anche mezza pagina sul Messaggero, e cioè il procuratore aggiunto di Roma ha aperto un'indagine conoscitiva su questa casa acquistata dall'INPS a prezzi di favore dal ministro della funzione pubblica Patroni Griffi, casa comprata da lui e da altri condomini. Il PM ha avviato anche contatti con la Guardia di Finanza per verificare la delega per acquisire elementi sulla vicenda. Dunque un'indagine conoscitiva aperta, mentre Libero, il giornale, torna alla carica. Libero per esempio dice: ora c'è il giallo di 500.000 euro di arbitrato al quale Patroni Griffi dice: ho già rinunciato, ma non risulta all'antitrust ancora ieri. A pagina 13 di Libero la vicenda è questa: il 16 giugno scorso, 5 mesi prima di diventare ministro, il consigliere di Stato Patroni Griffi ha assunto un delicato arbitrato in qualità di presidente del collegio tra Fiat S.p.A. e il consorzio Treno Alta Velocità S.p.A., un arbitrato giudicato da circa 500.000 euro, valutabile circa così. È un arbitrato da 536 milioni di euro all'antitrust, il compenso per il presidente del collegio di arbitrato è circa di 500.000 euro, Patroni Griffi dice: ho già rinunciato a questo arbitrato. Libero scrive: ancora non risulta fino a ieri sera. Mentre il giornale punta sul fatto che questa casa comprata da Patroni Griffi a Roma fu giudicata a rischio, in una zona a rischio sismico, una cosa che scrive il giornale è incredibile: in quella zona di Roma niente è a rischio sismico, ma quella casa sì. E il giornale, Emanuela Fontana lo scrive a pagina 11, scrive: chi fece la perizia decisiva sono due funzionari, Raniero Fabrizi e Filippo Di Giacomo, entrambi non indagati, ripeto non indagati, ma sono finiti nelle intercettazioni del ROS sulla cosiddetta cricca dei grandi appalti. Insomma, come vedete, non mollano la presa i quotidiani su questa vicenda, la vicenda della casa del ministro della funzione pubblica Patroni Griffi, quella casa per cui, come ha detto ieri il ministro a Repubblica, non ci dormo più la notte, questa benedetta casa. 24 mattino. Eccoci qua. Oh, mi hanno pizzicato tutti, ho detto i ministri del governo Berlusconi, che volete? Voglio troppo che torni Berlusconi, che ancora ho detto il governo Berlusconi, no, chiaramente è il governo Monti. A proposito, c'è qualcuno che fa tutti i calcoli, mi ha mandato i calcoli sugli appartamenti del sottosegretario Guido Improta, che dice denuncio 100, quanto ha denunciato? Ha denunciato di reddito 249.000 euro. C'è chi ha fatto calcoli, 40 appartamenti per 600 euro al mese. No, ma quelli che ha dato in affitto sono solo 16 di appartamenti, quelli di Napoli. Ne ha 40 e rotti, ma solo 16 in affitti per 600 euro, quindi fa 9.600 euro al mese. Insomma, infatti dice, dichiaro, 149.000 di mio stipendio, 100.000 dalle rendite degli appartamenti e dei terreni all'anno. Comunque, insomma, il più fortunato dal punto di vista del patrimonio immobiliare: 96 fabbricati, 95 dice lui per la verità, e 61 terreni, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Allora, le due vicende politiche del giorno sono certamente il no all'arresto della Camera Cosentino e il referendum bocciati dalla Corte Costituzionale. Cosentino viene intervistato da alcuni quotidiani, su Repubblica è molto duro, dice: grazie a chi mi ha sostenuto, ora mi dimetto da coordinatore anche se Berlusconi non voleva, non intendo rispondere a Maroni, lasciamo stare, io sono un politico del PDL che ha dato fastidio ai potenti campani della sinistra, tanto che uno dei PM che mi accusava, Narducci, oggi è assessore con De Magistris. Quanto al merito delle accuse, i casalesi si affidavano a uno sfigato come me che non ha mai amministrato nulla, così dice Cosentino. Mentre su Libero, intervistato a pagina 2 da Brunella Bolloli, dice: è stata una vittoria del Parlamento. E poi sentite la battuta su Roberto Saviano: io non sono neppure menzionato nel libro Gomorra, rispetto comunque Saviano, è un bravo comunicatore. Un bravo comunicatore. Oggi in realtà Roberto Saviano prende carta e penna e firma un lungo, durissimo articolo su Repubblica dal titolo Il patto scellerato. Scrive Saviano: Non tiri un sospiro di sollievo, onorevole Cosentino, trattenga ancora il fiato, non creda che questa congiura dell'omertà che si è frapposta tra lei e le richieste della magistratura possa sottrarla dal dovere di rispondere di anni di potere politico esercitato in uno dei territori più corrotti del mondo occidentale. Non tiri un sospiro di sollievo, onorevole Cosentino, perché quel fiato non dovrà usarlo solo per rispondere ai giudici. Il fiato che risparmierà lo deve usare per rispondere a chi ha visto come lei ha amministrato, e lo ha fatto nel peggiore dei modi possibili, la provincia di Caserta, plasmando una forma di contiguità, i tribunali diranno se giudiziaria ma sicuramente culturale, con la camorra. E poi sentite ancora Saviano cosa scrive: anche qualora i tribunali dovessero assolverla, lei per me non sarebbe innocente. E la sua colpevolezza ha poco a che fare con la fedina penale, la sua colpa è quella di avere per anni partecipato alla costruzione di un potere che si è alimentato di voti di scambio, della selezione di politici e degli imprenditori peggiori, il cui unico talento era l'attitudine al servilismo, all'obbedienza, la fame di ricchezza facile, la distruzione del territorio. La ritengo personalmente responsabile di aver preso decisioni che hanno devastato risorse pubbliche, impedito che nelle nostre terre la questione rifiuti fosse gestita in maniera adeguata. Io so chi è lei. Ho visto il sistema che lei ha contribuito a produrre e a consolidare, che consente lavoro solo agli amici e alle sue condizioni. È uno sfogo durissimo che continua un'intera pagina, pagina 35, tanto che Saviano ribadisce: lei per me non è innocente e non lo sarà mai, perché la camorra che domina con potere monopolistico ha trovato in lei un interlocutore. Onorevole Cosentino prenderà questo atto d'accusa come lo sfogo di una persona che la disprezza, può darsi sia così, ma veniamo dalla stessa terra, siamo cresciuti nello stesso territorio, abbiamo visto lo stesso sangue e abbiamo visto comandare le stesse persone, ma mai, come dice lei, siamo stati dalla stessa parte. Così Roberto Saviano, del quale ieri avevano detto molto, avevano fatto notare, ma come, Gomorra non cita mai Cosentino, di fatto, eccolo qua, l'atto d'accusa di Saviano nei confronti di Gomorra. C'è poi una vicenda politica evidente ormai, sebbene negata da molti leghisti, davanti a tutti, e ieri è diventata plastica nella scena in cui Roberto Maroni ha messo solo un dito dentro alla zona dove si devono pigiare i tasti per votare, per far vedere a tutti che lui votava sì all'arresto di Cosentino, e la scena plastica e evidente ormai la spaccatura all'interno della Lega. Tutti i titoli di giornali sono su questo, sul fatto che è guerra tra Bossi e Maroni, la Lega rischia, così titola per esempio Libero a pagina 3, oppure il Corriere della Sera a pagina 5, Bossi-Maroni, resa dei conti in piazza. Il Corriere della Sera con Marco Cremonesi racconta anche che ci sarebbe un piano per far fuori, estromettere il Delfino, vale a dire Maroni, durante la manifestazione del 22 a Milano. Una grande paura ora per il 22 gennaio, la manifestazione convocata in Piazza Duomo, in un palco nel quale Maroni non sarà invitato, addirittura si vocifera di un tentativo per estrometterlo dal partito. E invece, sempre nel retroscena della Lega, relativa alla Lega su Repubblica, firma Rodolfo Sala a pagina 9, lo sfogo di Maroni sarebbe questo: cambiamo Umberto o finiamo come il Partito di Rifondazione Comunista. Io non uscirò dal partito, subito i congressi. A questo punto, avrebbe detto Maroni, io rappresento la linea dell'opposizione interna. Nel gruppo dirigente ho pochi alleati, ma nella base i rapporti di forza si invertono. Ecco perché occorre al più presto celebrare i congressi. E tutti raccontano anche di una rissa sfiorata con l'onorevole Dozzo, che sarebbe stato sul punto di sferrare uno schiaffone all'onorevole Paolini, due della Lega, ieri poco prima del voto, per questa decisione di Bossi di lasciare Libera coscienza. Bossi che ha detto: Maroni è dispiaciuto per questo voto di Cosentino? Non piangiamo certo. Ecco, questo è il clima all'interno della Lega, con la base anche leghista in rivolta. A proposito di Lega, invece, Libero racconta una notizia che riguarda l'ex ministro Calderoli. Il vice direttore Franco Bechis la firma in prima pagina: Roberto Calderoli è indagato, è accusato di truffa perché è indagato a Roma dal PM Emanuele Di Salvo per truffa nei confronti di funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri per aver utilizzato un volo di Stato a cui non aveva diritto, un fatto avvenuto il 19 gennaio del 2011. Calderoli ha preso l'aereo di Stato per andare a Cuneo, andare e tornare in giornata. dove si trova la sua compagna, la presidente della provincia di Cuneo, Gancia. Il danno attribuito al ministro è un danno da 10.271,56 euro. Neanche un danno clamoroso dal punto di vista economico, ma il danno è truffa. E poi, insomma, la questione dell'uso del volo di Stato. Il volo di Stato per affari di famiglia, indagato Calderoli, il censore, così titola Libero a pagina 12. L'altra vicenda politica ben evidenziata dai giornali è quello del no della Corte Costituzionale ai due referendum che volevano abrogare la legge elettorale attuale. Donatella Stasio racconta a pagina 22 del Sole 24 Ore il nessun ripensamento con la Corte Costituzionale che ha bocciato a larghissima maggioranza entrambi i referendum elettorali per abrogare il Porcellum. Un no alla consultazione arrivato alle 12.30 di ieri, nonostante, insomma, il milione rotte di firme. E non sono stati giudicati ammissibili i due referendum. Tra l'altro c'è anche un corsivo accanto a questo articolo di Donatella Stasio a dire: è proprio il sollievo del premier Mario Monti, non Berlusconi, Mario Monti, il premier Mario Monti, un sollievo del premier. Ieri ha avuto una giornata trionfale. Beh, si è abbassato lo spread, è andata a gonfie vele la vendita, l'asta sui bot, c'è stato il no a Cosentino, e qualcuno diceva Berlusconi sarebbe stato pronto a staccare la spina, e quindi no a Cosentino, e quindi lunga vita al governo Monti. E ora anche questa vicenda dei referendum, tanto che ha tuonato Antonio Di Pietro, dopo che due giorni fa, qui, ai nostri microfoni, aveva detto: io accetterò tutto quello che decide la Corte Costituzionale in maniera molto pacata, accetterò il giudizio della Corte Costituzionale. C'è stato il giudizio della Corte Costituzionale, Antonio Di Pietro al Fatto Quotidiano, a pagina 3, è un golpe bianco con il via libera del Colle. Ecco, questa è la reazione pacata del leader dell'Italia dei Valori. Dal primo giorno in cui Berlusconi si è dimesso siamo di fronte a un governo del presidente. Napolitano ha fatto solo dichiarazioni da premier e non da capo dello Stato. Attacca duramente il Quirinale, tanto che Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, pagina 9, scrive: Napolitano, dopo i toni che si sono così accesi, si è deciso a intervenire con questa nota, visto che e queste dichiarazioni di Di Pietro sono scivolate verso una deriva antidemocratica. Quando si è evocato addirittura l'olio di ricino, si è infuriato il capo dello Stato. E allora era troppo, erano insinuazioni volgari, gratuite, che denotano solo scorrettezza istituzionale. Questa è la replica durissima del presidente Napolitano, che è intervenuto dunque sulla vicenda referendum, nel senso per stigmatizzare l'interpretazione di Di Pietro, che dice è stato fatto con una sorta di regia anche del Quirinale e per tenere in piedi il governo Monti. Vabbè, questi due fatti politici più importanti, mentre nell'agenda politica rimane la questione liberalizzazioni in primo piano. Ancora oggi il Sole 24 Ore si concentra con Carmine Fotina, pagina 10, le categorie sono in rivolta, l'obiettivo, scrive Fotina, a questo punto del governo è quello di non indietreggiare rispetto a questa ampia bozza circolata mercoledì con una trentina di articoli, una dozzina di settori economici interessati sui carburanti, i taxi, il commercio, le farmacie, le professioni, il lavoro, eccetera. Oggi, tra l'altro, sul tema del lavoro e dell'articolo 18 che è entrato nel settore liberalizzazioni dicendo le società che si fondono, per loro va applicato l'articolo 18 un limite di 50 dipendenti e non di 15. Su questo racconta Giorgio Pogliotti a pagina 14 del Sole 24 Ore, c'è già un muro dei sindacati sull'articolo 18, dure reazioni dopo le indiscrezioni sull'innalzamento della soglia in caso di fusioni. Oggi ne parleranno anche CGIL, CISL, UIL e UGL, che si incontreranno, per la verità, i leader di CGIL, CISL e UIL in un incontro per vedere come discutere sulla riforma del lavoro. Titola pagina 4 il manifesto su questo tema: fanno i furbetti dell'articolo 18. Non trova sponde questo sotterfugio inserito nella bozza liberalizzazioni per modificare il diritto al reintegro per i licenziamenti senza giusta causa. Sta di fatto che di liberalizzazioni si continua a parlare, mentre voglio ripartire da un'intervista al ministro della Sanità, Balduzzi, sul secolo XIX, dopo il traffico, ribadisce la questione del junk food, una tassa sul cibo spazzatura, e poi, attenzione, torna il ticket per il ricovero, un'angoscia per molti italiani. Forse ritorna. Presto il ticket sui ricoveri, questo è l'annuncio del ministro alla salute Balduzzi, intervistato dal secolo XIX da Guido Filippi a pagina 7, un'intera pagina. Non ha senso anticipare la discussione, ma il ticket è un'ipotesi, dipende da tanti fattori, così dice. E poi l'altro punto centrale dell'intervista è, sapete che c'è il progetto di tassare il cibo spazzatura, no? Questo è il junk food, è un dibattito mondiale, in vari paesi ci sono delle tasse, nel senso si fa pagare di più, si disincentiva, si vuole così educare all'alimentazione corretta in virtù di una salute futura migliore per tutti i cittadini, che questo si riverbera anche sui costi, in maniera positiva sui costi per le casse statali. Ebbene, sentite intanto come risponde a questa domanda. Sta pensando a una tassa di scopo sui superalcolici e sui cibi spazzatura, ministro? Sì, il documento doveva rimanere riservato, ma è uscito da due ministeri diversi. A Roma è così. Sconsolato Balduzzi dice: doveva essere una cosa riservata, ma a Roma funziona così, escono i dossier dai ministeri. La tassa sui superalcolici ci permetterebbe di raggiungere due obiettivi: rende consapevoli i cittadini che devono prestare grande attenzione agli stili di vita e alla qualità dei cibi, e permette anche di recuperare risorse da mettere subito in circolo. C'è anche per caso una tassa sul fumo? Allo studio? No, una cosa per volta, è sul tavolo, ma per il futuro. Ora in primo piano ci sono i ticket, così il ministro della salute Balduzzi, intervistato dal secolo XIX. Vi voglio dare solo questa chicca di cui parla Gian Antonio Stella, pagina 19 del Corriere della Sera, visto che è venerdì, così andate verso i vostri weekend a meditare con grande relax. Il vice di Durvalder, il vice del presidente di Bolzano, della provincia di Bolzano, il vice, neanche lui, guadagna più di Nicolas Sarkozy. Hans Berger, il vice di Durvalder, prende 24.360 euro lordi al mese, per carità, lordi, 24.360 euro. Nicolas Sarkozy ne prende 21.133. Vabbè, è la denuncia col titolo Grasse indennità del quotidiano sudtirolese Neue Südtiroler Tageszeitung. Ci sono tutti i dettagli a pagina 19. Vorrei segnalarvi due notizie di cronaca, entrambe terribili. Una proviene da Milano. È successa ieri sera, l'abbiamo sentito in giornale radio, la caccia al pirata del SUV che ha travolto il vigile in bici, così titola pagina 22 il Corriere della Sera. Un normale controllo e il proprietario di una BMW X5 fermato da un vigile di quartiere, un vigile che si è messo davanti a lui con la bicicletta per fermarlo per una diatriba che c'era stata tra questo proprietario di SUV che avrebbe schiacciato il piede a una persona che era lì. E a quel punto cosa è successo? Il proprietario del SUV è partito e ha travolto e ha trascinato per 300 metri, così hanno stabilito i periti, questo povero vigile Nicolò Savarino, di origine siciliana, celibe, che è stato trascinato, lui e la bicicletta, incastrato sotto le ruote della macchina per 300 metri, è morto. E ora ovviamente c'è la comprensibile sdegno e la caccia a questo delinquente che ha ucciso questa persona per un banale controllo. L'altra notizia di cronaca proviene dall'estero, proviene dall'Afghanistan, ma coinvolge gli Stati Uniti e i loro militari, alcuni dei loro militari, 4 per la precisione. Marines shock, oltraggio ai cadaveri. La scena è stata postata su YouTube di 4 Marines che in Afghanistan fanno la pipì sui cadaveri di 3 afghani, oltraggiano i corpi dei talebani e bufera sul video dei Marines, così titola anche Repubblica con un lungo articolo di Vittorio Zucconi. Voglio segnalarvi anche l'editoriale di prima pagina di Avvenire su questo, l'oltraggio e il danno, l'articolo di Giorgio Ferrari. Offendere il corpo morto del nemico, lasciarlo incustodito e violato è un atto di barbarie. Barbaro è Achille che trascina per 9 giorni col suo carro il cadavere di Ettore, ucciso in duello, prima di restituirlo a suo padre Priamo. La pena di morte stessa è una barbarie. Perfino scrivere una poesia dopo quello che è accaduto ad Auschwitz, si arrischiava a dire il filosofo Adorno, è un atto di barbarie. Nella mesta cronaca dell'ordinaria barbarie contemporanea si inquadra anche il breve ma raggelante filmato amatoriale su YouTube nel quale 4 Marines urinano sui cadaveri di 3 afghani. Deplorevole, ha detto il segretario alla difesa americano Leon Panetta. Qualcuno dice, beh, ma sono barbari anche i talebani, ma la barbarie altrui non cancella quella dei Marines. Così Giorgio Ferrari in prima pagina di Avvenire. Beh, davvero una scena incredibile che spero poi non abbia, speriamo non abbia ripercussioni. 2 cose per chiudere. La prima è il tema di cui ci occuperemo noi alle 8.30, se ne occupa anche Italia Oggi con un'intera pagina, pagina 7, il fisco adocchia le prostitute, no? E senza false ironie. A pagina 7 si parla di come l'azione di Bologna, quello che qualcuno dice uno schedare le prostitute. I carabinieri da mesi chiedono quanto guadagna signorina, prestazione media, quanto guadagna al giorno, più o meno, eccetera. Insomma, tutto poi dato all'Agenzia delle Entrate per il fisco, controlli fiscali. Ne parleremo questo alle 8.30. E poi c'è, per concludere lo sport, il giallo di Pato. Pato che è rimasto al Milan, forse perché è fidanzato con Barbara Berlusconi, chi lo sa. Ma poi queste cose sono così. Doveva essere a Parigi, rimane al Milan e magari domenica segna il gol decisivo nel derby, no? Peter, certe cose nel calcio vanno così, chi lo sa. Aspettiamo.